faccia al pavimento. Le formiche non sono mai state così vicine e la fila di calici mai così lontana, in alto inutili sulla mensola in cristallo. E la polvere è qui come lassù, le formiche qui come lassù, ma io più giù non posso andare.